English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Questa sera parliamo di un'altra Giulia, anzi di una Julie e di una Giulia. Julie and Giulia è il titolo di un film di Nora Ephron, che noi signorine di qualsiasi età amiamo molto, perché ha fatto un sacco di film dedicati soprattutto al pubblico femminile, ma non solo, anche questo Julie e Giulia, che è uscito in questi giorni, è uscito il 23 ottobre, ma soprattutto è stato presentato al Festival di Roma con l'attrice principale, che è la straordinaria Meryl Streep. Eravamo a Roma, abbiamo sentito quello che ha raccontato ai giornalisti e la tentazione di farvela risentire era troppa. Quindi cediamo e ascoltiamo cosa ha raccontato Meryl Streep a Roma. In particolare, si è subito concentrata sul problema dell'attrice, del ruolo dell'attrice. I thought of myself as an actor, that I could play a man, I could play a woman, an old fat person, I could play a young slim person. I thought of myself as malleable, as clay. I could do whatever needed to be done. So our business has changed very much since I came up in the 70s. Now it's just relentless attention. And the young girls feel they have to fit a form of a certain way of being off camera. Giulia, che diciamo di questa Meryl Streep? Incisiva, straordinaria, donna saggia e simpatica. Fantastica, proprio inizia con una dichiarazione di intenti, cioè quando lei, I thought of myself as an actor, nel senso di persona che recita, cioè io... L'idea che avevo di me stessa quando ho iniziato, perché è chiaro che appunto cerca di spiegare come vede lei il mestiere di attore, di attrice, era questa, cioè I could play a man, a woman, an old fat person, a young slim person, quindi un uomo, una donna, una signora un po' vecchia o una persona un po' anziana e un po' grassottella, oppure una persona giovane e molto sottile, slim. Sì, perché lei dice io pensavo e penso a me stessa in un certo senso malleabile come la clay, come la terra, quindi proprio il diciamo l'ideale dell'attore, no? Che resta appunto, diventa malleabile o nelle mani di se stesso perché decide di cambiare, o magari in quelle del regista, quindi as malleable as clay, malleabile as come la terra. Ma perché parla al passato? Perché dice our business, il nostro lavoro in generale, has changed, è cambiato. Since I came up in the 70s, quindi to came up in questo senso da quando io mi sono affacciata a questo mondo, sono diventata famosa in the 70s, quindi negli anni 70, questa la conosciamo ormai, la sentiamo spesso, soprattutto dagli americani, questa forma di espressione, quindi 70s, gli anni 70, gli 80s, gli anni 80. E invece lei dice... È tutto cambiato, adesso c'è questa relentless attention. Less sappiamo che è una cosa che è un suffisso che aggiungiamo alle parole per negare quello che viene prima. Quindi relent vuol dire sosta, quindi un'attenzione senza sosta. Un'attenzione di chi? Dei media, di tutti noi, per, attenzione, la vita off camera, cioè fuori dal set delle giovani attrici. Che cosa devono fare queste povere giovani attrici secondo Meryl Streep? Che hanno questa ossessione che lei ovviamente nota forse più di noi, proprio perché ha visto questo our business has changed, dice young girls, young actresses naturalmente, feel they have to fit a form of a certain way of being. Qui è interessante la scelta delle parole, perché to fit a form è chiaramente un riferimento al fisico, no? Di essere, di rispettare, to fit, di rientrare in una forma, quindi direi in una forma fisica che però diventa un certain way of being, che diventa un modo d'essere, cioè la magrezza, l'essere sempre in forma, essere sempre belle, è quello che ci si aspetta da un'attrice, cioè è la sua essenza. Ma quali sono stati i modelli, gli attori e le attrici a cui si è ispirata la stessa Meryl Streep? Lo ha raccontato, sentiamolo. I've been so influenced by the actors that I've watched over my lifetime. I remember when I was a young child and I came home and there would be movies on television. I remember seeing Carol Lombard in something. And running downstairs and telling my mother this woman was so funny, but she was so beautiful at the same time. And the two things I never knew could happen. But I think I've taken inspiration from the actors that I've seen. Even I still do. I steal from actors that I performances that I see. I think, where could I use that? It's better to steal from men because they never know it. Allora, spieghiamo subito perché Meryl Streep ride. Se non l'avessimo capito, lei dice sì, io sono un'attrice che ruba, I steal from actors, però con una tecnica particolare. Si dice I steal from actors from performances, e lei dice I think, where could I use that? Dove potrei usare questo, cioè questa cosa che ho visto fare? E poi dice it's better to steal from men, to steal from, quindi come in italiano, rubare dagli uomini. Perché? Because they never know it, perché non se ne accorgono. E tra l'altro c'è l'interprete che le dice, ma are you sure they never know it? E lei con questa risata che chi l'ha sentita recitare in originale è forse una delle sue caratteristiche più belle, calda, molto sincera, ride, dice, ma boh, forse se ne accorgono. Ma torniamo all'inizio di questo estratto, perché lei confessa in particolare appunto delle ispirazioni anche con un aneddoto della sua infanzia. Si dice, when I was a young child, quindi una bambina molto piccola, quindi letteralmente una bambina giovane, quindi una bambina piccola diremmo noi, e dice I came home, quindi arrivavo a casa. Qui c'è un'espressione che in italiano noi non usiamo assolutamente, è un condizionale per riferirsi al passato, cioè I came home, there would be movies on TV, perché letteralmente sarebbe e ci sarebbero dei film alla tele. Noi naturalmente dovremmo dire io tornavo a casa e la televisione proiettava dei film, quindi comunque c'erano questi film. Notate appunto questo uso strano del condizionale, molto comune però in America, e lei guardava questi film e dice I've taken inspiration from the actors that I've seen over my lifetime. Lei ormai si considera, giustamente, insomma non è proprio più una ragazzina, però un lifetime, una vita, il tempo di una vita, ha visto tanti film, tanti attori. Devo dire che è bella questa immagine di lei che vede Carole Lombard in televisione e cosa fa? Corre al piano di sotto. Running downstairs, anche questo vi dà l'idea della tipica casa americana che ha sempre un piano terra dove c'è la cucina in generale e magari un piccolo bagno, una piccola camera per tutti, e sopra invece ci sono le camere, quindi quelle probabilmente con la televisione, quindi lei si precipita giù dalla mamma che magari era in cucina per raccontarle. Belli questi spaccati di vita di Meryl Streep, che appunto dicevamo è protagonista di Julie and Julia, che è una commedia. E qualcuno le ha chiesto, sì, ma il fatto che lei sia protagonista quest'anno di questa commedia non rovina le sue chance di arrivare all'Oscar? E lei è molto filosofa, sentiamo. Oh, Oscars. Yeah, comedy... I don't look at things this way. To me, there are some very felt parts of this film that don't feel comic. And there are parts of films that people have called dramas that I've been in where I've felt like I got some good laughs. So it's more interesting for me to think about the work than to think about the awards. And I really don't think about it anymore. I won my last Oscar 26 years ago, I think, something like that. But it was a long time ago. I'm honored when I get nominated. It's just the actors who vote on that. So it really makes you feel good. It's as if all the journalists in the world got together and said that your work stood out, you and four others. It's an amazing feeling. Allora, devo dire, lei usa le espressioni e i concetti di molte altre attrici, però non so perché io a Meryl Streep credo che lei davvero lo pensi quando dice oh Oscars, questi cari vecchi Oscars. Lei dice non penso che abbia ragione chi dice se fai una commedia non hai chance di arrivare all'Oscar, intanto. Sì. Dà proprio l'idea della persona che ha imparato a farsi la sua opinione sulle cose, e lo dice, I don't look at things this way, cioè non la vedo in questo modo, la vedo nel mio modo, che è un altro, e cioè che per esempio in questo film there are very felt parts, delle parti letteralmente anche in italiano molto sentite, che quindi non sembrano, don't feel comic, non sembrano delle cose comiche. E d'altro canto in film che people have called drama, che qualcuno ha definito film drammatici, io ho avuto la sensazione, I got some good laughs, che sono riuscita a far ridere le persone. Quindi è evidente che non le piace classificare o dare delle definizioni troppo strette. E poi dice: a me interessa di più the work, io penso al work, non agli awards, cioè ai riconoscimenti, anche perché lo confessa, sono molti anni che lei in realtà non vince un Oscar, è sempre nominata ma sono davvero tanti anni che non lo vince, lei nemmeno si ricorda bene o finge di non ricordarselo. Sì. Questo numero lo dice 26 years ago or something like that, o qualcosa del genere, si sente che insomma se ne accorge che sono tanti anni, però dice I'm honored when I'm get nominated, e come appunto diceva Marta, di nomination ne ha prese tante, quindi comunque quello è un onore, perché it's just the actors who vote, sono gli attori, gli altri attori che votano, che scelgono queste 5 per 5 per ogni categoria di Oscar, queste 5 persone o film che vengono nominati. E devo dire che è bella la similitudine che usa per rispondere al giornalista che giustamente era una conferenza stampa, c'eri tu e tu tanti, chissà quanti altri nostri colleghi, e dice insomma come se voi, all the journalists of the world came together, come se avessimo una specie di Pulitzer mondiale, e qualcuno dice your work stood out, to stand out vuol dire distinguersi, quindi quello che hai fatto tu si è distinto insieme, you and four others, con l'apostrofo se lo vedessimo scritto, cioè il tuo lavoro e quello di altre 4 persone, appunto queste 5 nomination, it's an amazing feeling, è una sensazione fantastica. Devo dire che appunto non so perché io queste frasi le ho già sentite da altre attrici, ma io a Meryl Streep credo, quindi credo che lei dicesse la verità. Al cinema c'è quindi Giulia e Giulia di Nora Ephron con Meryl Streep. Per il nostro tempo radiofonico invece concludiamo qui il nostro sabato sera, vi ricordo in edicola il nostro English 24, ringrazio Carmelo Lauricella in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.